La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al libro Grandi Illusioni. Vi proponiamo la seconda parte dell'intervista realizzata con l'autore, Giuliano Amato, già presidente del Consiglio e più volte ministro, presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario su come il potere dell'informazione ci ha aiutato a sopravvivere e a creare il mondo moderno. La parola adesso va a Dino Pesole. Il grande slancio e i sogni generati dal miracolo economico ci hanno fatto credere che una crescita indefinita avrebbe permesso di garantire senza aggravi fiscali i diritti sociali ed economici. In realtà, dagli anni 70 in poi, l'Italia ha pagato benessere e diritti anche ipotecando il proprio futuro. Secondo la stringente interpretazione proposta in questo volume, fenomeni come l'industria di Stato, il crollo delle nascite, il Servizio Sanitario Nazionale hanno avuto un peso maggiore di quello del terrorismo o del compromesso storico nelle vicende di un paese che ha scelto di rinviare finché possibile il faccia a faccia con il declino demografico, il ristagno e ora la decrescita, la perdita di posizioni dell'Occidente. La scorsa settimana abbiamo cominciato in compagnia del presidente Giuliano Amato una sorta di viaggio all'interno dell'economia e della società italiana dal secondo dopoguerra in poi, traendo spunto dal libro che lo stesso Amato ha scritto insieme ad Andrea Graziosi dal titolo Grandi Illusioni ragionando sull'Italia, pubblicato dal Mulino. Presidente Amato, buonasera e bentornato. Buonasera e grazie di nuovo. Allora, riprendiamo il nostro viaggio tra gli anni 70 e gli anni 80, perché da quel che si evince con grande chiarezza dal suo libro è proprio quello il momento in cui comincia a venir meno o comunque a emergere l'altra grande illusione, cioè quella, come dicevamo la settimana scorsa, che si potesse finanziare un programma di sostegno importante del welfare state senza aumentare le tasse. E da lì parte lo squilibrio e arriviamo agli anni 80. Ecco, insieme vediamo cosa accade negli anni 80. Qual è l'altra grande illusione degli anni 80, Presidente? Ma sa, negli anni 80, più che nuove illusioni cominciano a mostrare la corda alle precedenti illusioni, e forse sì, direi che ha ragione lei, si può anche dire ci si illuse che rimedi drastici non fossero necessari. Che cosa era accaduto all'inizio degli anni Ottanta? All'inizio degli anni Ottanta la esplosione del debito pubblico intervenne non tanto perché fosse tutto d'un colpo cresciuto, perché la crescita era stata lenta a partire dall'inizio degli anni 70 e progressiva, ma ci fu uno dei personaggi più intelligenti e lungimiranti che noi abbiamo avuto nella storia degli ultimi decenni, Beniamino Andreatta, grande economista, polemista e amante, se vuole, delle decisioni difficili, il quale, diventato ministro del Tesoro, eravamo proprio all'inizio del decennio, ritenne che non si potesse più consentire al Tesoro stesso, il famoso divorzio, stesso, certo, di alimentare il proprio debito indebitandosi con la Banca d'Italia attraverso un conto speciale riservato al sovrano, secondo un'antichissima tradizione, sul quale si pagavano interessi molto più bassi di quelli di mercato. Questo creava l'illusione, rimaniamo sempre con questa parola, che il debito alla fin fine fosse più basso di quello che era e che si potesse continuare a mantenerlo a quei livelli cavandosela alla fin fine con interessi minimali. Tenga conto che una tecnica di finanziamento della spesa che in quegli anni era molto utilizzata era quella non di finanziarla direttamente con risorse pubbliche, ma di fare un bel mutuo. E a quel punto si mettevano a carico del bilancio dello Stato soltanto le ridotte annualità di interessi da pagare sul mutuo, in effetti. Per spiegarlo anche ai nostri ascoltatori, il Presidente Amato sta parlando di quello che viene definito il divorzio fondamentalmente, esatto, degli anni, cioè, inizi anni 80. Non ci siamo ancora al divorzio, la fase che sto raccontando è quella del perdurante matrimonio. Il perdurante che matrimonio. Cosa fa Andreatta? Dice no, questo è un sistema che in realtà imbroglia noi stessi, ci fa ritenere di avere un debito più basso di quello che abbiamo, e allora dice divorzio. Il Tesoro e la Banca d'Italia divorzino. Se il Tesoro si vuole indebitare, vada a indebitarsi sui mercati e paghi gli interessi che qualunque operatore economico è destinato a pagare in ciascun momento quando va a chiedere soldi agli altri. A quel punto, ovviamente, tutte le annualità che gravavano sul bilancio dello Stato presero una bella impennata e il debito da un momento all'altro diventò più alto, diciamo la verità. Venne meno la finzione che lo aveva fatto sembrare più basso. Ora, a quel punto sarebbe stato necessario intervenire in modo drastico ed eravamo forse ancora in tempo, probabilmente con riduzioni di entrate, ma le solite cose, riduzione di spese, chiedo scusa, aumenti di entrate. Certo. Ora, la vicenda nostra, peraltro, era tale in quel momento, non so se io me li ricordo, i primi anni 80, avevamo un'inflazione a due cifre e il problema principale per la vita degli italiani era quello di ridurre questa inflazione. E il governo, che poi fu per lunghi anni nel corso degli anni 80 il governo Craxi, si preoccupò soprattutto di ridurre l'inflazione e ad esempio evitò aumenti di imposte, accise, IVA, eccetera, che sarebbero servite per ridurre il disavanzo, ma che avrebbero probabilmente impedito o ridotto la lotta contro l'inflazione. Fatto sta ed è che l'inflazione si ridusse, ma sul bilancio pubblico si fece meno di quello che sarebbe stato necessario fare. Si arrivò così all'inizio degli anni 90 con un'autentica crisi che capitò a me di vivere. Certo, sappiamo il 92, crisi molto drammatica che ricorda da vicino anche quella che abbiamo vissuto di recente. Infatti volevo chiudere questa seconda puntata di riflessione con lei proprio partendo dalla crisi in cui siamo immersi. In realtà l'economia italiana è ferma da oltre un decennio e quindi ecco che ancora una volta vengono al pettine i nodi che rinviano al libro, cioè le grandi illusioni, è come se poi tutte insieme presentino il conto. Il conto è che il nostro paese è fermo. Secondo lei come ne possiamo uscire? Ma sa, lei ha ragione, ecco, è come se tutte le nostre illusioni, grandi e piccole, ci presentassero il conto, perché quando noi siamo entrati nell'euro abbiamo perso per ciò stesso la possibilità di fare ciò che avevo fatto io nel 92 per uscire dai guai, svalutare la lira e rendere in questo modo più competitivi i prodotti italiani sui mercati internazionali, perché se la lira perde valore rispetto al marco, per chi compra in marchi il prodotto italiano costa meno, ovviamente, no? Questo lo capiamo tutti. L'euro, arrivando, ci imponeva di trovare la nostra competitività non più attraverso la svalutazione, ma riducendo i costi interni che gravano sulla nostra economia. E i costi non necessariamente sono costi, chiamiamoli monetari, ma possono essere costi di ritardi amministrativi, di ricorsi continui ai TAR, di autorizzazioni che ci mettono un secolo per arrivare, oppure che ci mettono poco per arrivare, ma sono 10 per ciascuna attività che io devo svolgere. O di scarsa concorrenza, lo dico all'ex presidente dell'antitrust. O di settori nei quali, non essendoci concorrenza sufficiente, appunto, si ha tutta l'inefficienza di chi sfrutta le proprie posizioni di rendita. Certo. Ora, devo dire che con una formula felice, proprio a suo tempo, Massimo D'Alema, credo fosse ancora Presidente del Consiglio quando lo disse, osservò: attenzione, l'ingresso nell'euro non è l'arrivo allo striscione del traguardo per cui poi ci si riposa, ma è l'ammissione su un ring dove bisogna saper combattere. Ecco, noi l'abbiamo un po' preso come l'arrivo al traguardo. Da quel momento in là, grazie all'euro, noi avremmo pagato interessi più bassi sul nostro debito e tanto bastava per renderci tranquilli. Ci siamo accorti che non è così. Appena le cose hanno cominciato ad andar male, anche gli interessi hanno cominciato a differenziarsi da un paese e l'altro della zona euro. E a quel punto sono riemersi i problemi: chi è più forte ed è più competitivo se la cava meglio. Noi ce la stiamo tuttora cavando peggio degli altri. Quindi lei dice uscirne, e uscirne richiede più cose in realtà. Sì. Richiede certo politiche europee migliori, ora non abbiamo il tempo di affrontarlo questo tema, ma l'eurozona l'abbiamo proprio organizzata male e quindi non ha neppure gli strumenti per riequilibrare come si dovrebbe gli andamenti economici particolarmente negativi, però molto devono fare i singoli paesi più deboli. Noi insomma abbiamo un'agenda, quella che è nella quale si specchiano quei difetti che hanno reso la nostra produttività così bassa nell'ultimo decennio, ecco, quell'agenda è ancora largamente davanti a noi. È difficile, però alla fin fine è anche incoraggiante. Se facciamo meglio, ne possiamo uscire. Grazie, grazie veramente Presidente Amato per essere stato con noi per due puntate. L'occasione è stata discutere insieme a lei del suo bel libro che ha scritto insieme ad Andrea Graziosi, Grandi Illusioni. Buonasera e grazie ancora. Buonasera a lei e agli ascoltatori. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della Storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato al potere dell'informazione. Fin dagli albori dell'umanità, la nostra storia è stata plasmata dalla capacità di ricevere, capire e comunicare le informazioni. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda giovedì 4 luglio alle 17 su History Channel. Gli esseri umani iniziano a sviluppare le prime forme di linguaggio complesso circa 150.000 anni fa. Grazie a questo straordinario passo avanti nell'evoluzione, l'uomo può condividere informazioni fondamentali. Questo contribuisce a farci sopravvivere e prosperare come specie. Ma ci vorranno altri 145.000 anni prima che i popoli inizino ad annotare le informazioni su creta e papiro. La scrittura nasce in quello che è l'attuale Iraq. Le prime forme di scrittura sono costituite da simboli e disegni raffiguranti gli oggetti della vita quotidiana, ma si sono rivelate un passaggio chiave nella condivisione delle informazioni. La scrittura ci permette di documentare e comunicare informazioni alle persone non immediatamente vicine a noi. Fa anche sì che ci sia una separazione tra chi sa leggere e scrivere e chi no. 2500 avanti Cristo. Lungo le sponde del Nilo nasce dal deserto un'enorme struttura. La Grande Piramide. Decine di migliaia di schiavi trasportano, tagliano e cesellano più di 6 milioni di tonnellate di pietra. È una sbalorditiva impresa di ingegneria e organizzazione, resa più semplice dal nuovo metodo rivoluzionario per condividere le informazioni. La scrittura. Sam Sheridan, autore di Cuore Guerriero. Nell'antico Egitto la scrittura è la componente fondamentale del potere. È una parte del sistema con cui i potenti controllano il popolo. Loro hanno le informazioni e l'informazione è potere. Il sistema di scrittura dell'antico Egitto usa più di 800 simboli pittorici chiamati glifi. Nell'antico Egitto solo poche persone privilegiate sanno leggere e scrivere. Sono chiamate scribi. È un monopolio del potere. Ma tutto questo sta per cambiare. Un nuovo metodo straordinario di scrittura demolisce il vecchio ordine, cambia l'equilibrio del potere e consente a più persone l'accesso alle informazioni. L'alfabeto. I Fenici. Un popolo di marinai commercianti, imprenditori ed esploratori. Gestiscono un enorme impero commerciale che si estende dal Medio Oriente all'Europa, all'Africa. Avere scambi con così tanti popoli diversi richiede mezzi rapidi e adattabili per tenere i registri. L'alfabeto va dovunque vadano i Fenici. Dato che è facile da imparare, le informazioni non sono più alla portata della sola classe dirigente. L'alfabeto è il potere del popolo. James Makes, direttore della rivista Popular Mechanics. Se si vuole capire quanto è stato rivoluzionario l'alfabeto fenicio, basta guardare qualsiasi parola scritta nelle lingue occidentali. Usiamo ancora molti dei simboli inventati dai fenici. Col passare del tempo, l'uso dell'alfabeto si evolve. E le informazioni che esso porta trasformeranno ogni cosa. Nel 587 avanti Cristo, l'alfabeto raggiunge una tribù che usa questo mezzo per documentare la sua storia eccezionale e le sue credenze religiose. Sono gli ebrei. Le loro scritture andranno a comporre uno dei libri più importanti e potenti di tutti i tempi. La Bibbia. Ma ci vorranno altri 2000 anni e un'ulteriore invenzione rivoluzionaria prima che l'influenza della Bibbia possa diffondersi in lungo e in largo. Allora avrà un impatto esplosivo sul mondo. Mainz, Germania, 1439. Le Bibbie sono incredibilmente rare e costose. Devono essere scrupolosamente copiate a mano. Ci vogliono 3 anni per produrre un libro. Soltanto la Chiesa e i ricchi possiedono la Bibbia. Ma un uomo ha la lungimiranza per cambiare questo stato di cose. Johannes Gutenberg. La sua idea è produrre libri in massa e rendere la conoscenza e l'informazione alla portata di tutti. Il nucleo dell'invenzione di Gutenberg sono le singole lettere di metallo. I caratteri mobili. Possono essere disposti in qualsiasi ordine, per produrre qualsiasi combinazione di lettere e parole. Dopo anni di duro lavoro, finalmente svela la sua grande invenzione, la macchina da stampa. Così l'informazione sarà alla portata di tutti. Gutenberg può produrre migliaia di pagine in un giorno, invece di 2, scritte a mano. Per la prima volta in assoluto, i libri possono essere prodotti in massa. Stampa 180 copie della Bibbia. Tutte identiche fra loro. Ne deriva una rivoluzione della stampa. In soli 50 anni, l'Europa ha 250 stamperie. Il mercato viene invaso da milioni di libri. L'alfabetizzazione aumenta. La conoscenza non è più solo per i ricchi e i potenti. Le nuove idee si diffondono come le fiamme con il vento. Sam Sheridan, autore di Cuore guerriero. Questo significa che c'è un trasferimento di idee. Ora esiste il modo per parlarsi da un continente all'altro. 300 anni dopo, nel Nuovo Mondo, l'invenzione di Gutenberg soffierà sul fuoco di una sanguinosa ribellione. Boston, 1770. Uno dei luoghi più alfabetizzati della Terra. Una larga percentuale dei primi coloni sa leggere e scrivere. E leggono di eguaglianza e libertà. L'America è una colonia britannica. Molti dei coloni non sono contenti di essere governati e tassati da qualcuno a migliaia di chilometri di distanza. Idee ribelli di libertà si diffondono in tutto il Nuovo Mondo. La tensione sale. In un frangente, la folla attacca una pattuglia britannica. 5 coloni perdono la vita. Si chiama il massacro di Boston. Un uomo del luogo stampa una potente immagine del massacro. Appare sui giornali di tutte le 13 colonie americane. La notizia alimenta rabbia e agitazione. E infine incita una piccola armata di combattenti per la libertà a sfidare la Gran Bretagna, la più grande superpotenza del mondo. La scrittura incoraggia la gente a battersi per la libertà. Quello che è nato come un semplice strumento usato da re e imperatori per controllare le masse ha compiuto un ciclo completo. Ora le masse usano il potere dell'informazione per sfidare le autorità. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Mankind, le 12 chiavi del successo, il potere della comunicazione. Regia Youth Ballantyne, titolare dei diritti Fox International Channels Italy, casa di produzione EITN. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda giovedì 4 luglio alle 17 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.